È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì! Per la precisione, 14 luglio! Siamo ai titoli che oggi sono variegati. Il Sole 24 Ore, export e investimenti, nasce la regia unica. Questo è il titolo di prima pagina. Il Corriere della Sera invece va sul piano internazionale. Trump, Macron, nuovo asse, intesa sulla lotta al terrorismo. Il presidente americano dice sul clima si può cambiare. Per Repubblica invece, ius soli, il governo rischia la crisi. Pisapia, AMDP, non mi candido. La Stampa invece apre i titoli dedicati alla fotografia e al rapporto dell'Istat che dice più di 1,5 milioni i nuclei, quindi le famiglie in condizioni di bisogno assoluto, i poveri in Italia. Titolo della Stampa: i bambini diventano più poveri, così l'Italia brucia il suo futuro. Anche Avvenire: i nostri poveri figli. E anche il Manifesto apre su questo. Il titolo è di fronte a due donne che cercano nell'immondizia e tra gli scarti, tra le cassette scartate al mercato, e il titolo molto ironico è La crescita. Per il Messaggero, migranti, primi blocchi in Libia. Mentre il Fatto Quotidiano sull'emergenza all'Italia brucia, roghi, due morti, pompieri in ferie forzate vogliono tornare al lavoro. Per La Verità, le carceri italiane sono un colabrodo, minima sicurezza, ecco tutti i numeri. Queste alcune delle prime pagine, come vedete, sono titoli diversi, non c'è una notizia che si impone più delle altre. Secondo me invece la prima che si impone come notizia, abbiamo sentito anche Laura Bettini nel giornale radio, è la morte del premio Nobel per la pace Liu Xiaobo in Cina. Colui che era considerato un dissidente per il governo cinese, colui che invece si batteva semplicemente per una Cina un po' più democratica, per il rispetto dei diritti umani per tutti, è morto di cancro al fegato, implorando in tutti i modi, anche attraverso la moglie e le autorità cinesi, di farlo andare all'estero per cercare di curarlo. E invece la Cina ha detto no fino all'ultimo, lasciandolo morire lì, considerandolo un caso interno nel quale le cancellerie estere, tutto il mondo non doveva mettere becco. Cina, Liu Xiaobo è morto. Pechino è responsabile. Questo è il titolo di pagina 5 di Avvenire. Leggo dall'articolo di Stefano Vecchia. Liu Xiaobo ha smesso di lottare. La notizia è arrivata nella notte cinese, non in attesa, ma sicuramente dolorosa per chi conosceva l'attivista e per chi fino all'ultimo gli è stato vicino e ha tentato di forzare le autorità cinesi a lasciarlo uscire, anche se solo per morire da uomo libero dal paese dove era prigioniero e dove stava scontando una pena 11 anni. La pena per incitamento alla sovversione dell'ordine statale. Chi era Liu Xiaobo? Beh, ci sono profili un po' in tutti i quotidiani. Il Corriere dedica due pagine a questo. Pagina 15 scrive Guido Santevecchi: divenne celebre nell'89, insegnava alla Columbia University di New York, ma tornò a Pechino per la protesta della Tiananmen. Si schierò con gli studenti, però li implorò alla fine di ritirarsi per evitare il massacro. Fu incarcerato una prima volta, 2 anni di carcere, poi 3 anni di campo di rieducazione, dal 96 al 99. Nel 2008 pubblicò Charter 808, che si ispirava alla Carta 77 dei dissidenti cecoslovacchi durante l'era sovietica. Il letterato cinese chiedeva aperture democratiche, non la fine del governo comunista, ma tutto ciò bastò per una dura condanna, 11 anni di carcere. Ed era in cella quando nel 2010 gli fu assegnato il Nobel per la pace e la sua sedia rimase vuota alla cerimonia della consegna. Se fosse stato libero di tenere il suo discorso, avrebbe potuto leggere qualche brano del suo manifesto politico, in cui scriveva: «La Cina è una grande nazione il cui sistema politico continua a produrre disastri sul fronte dei diritti dell'uomo. Spero di poter essere l'ultima vittima dell'Inquisizione». E tra l'altro a Liu Xiaobo è dedicato anche il caffè di Massimo Gramellini in Prima della Stampa. Il titolo: Nobel per l'amore. Ci sono amori così potenti che rimangono liberi anche dietro le sbarre. il dissidente cinese Liu Xiaobo e la poetessa governativa Liu Xia, nomi simili da predestinati, si conobbero negli anni Ottanta, entrambi sposati, lui con un carico ulteriore di amanti assortite, ma dal sorriso di lei sgorgava luce pura. Il resto venne di conseguenza, piazza Tiananmen, gli arresti, i divorzi, il matrimonio in carcere, anche quando lui tornò libero, si fa per dire, non restarono mai soli, la polizia ficcava il naso perfino nelle lettere d'amore. Eppure quei due riuscivano a creare intimità anche dove non c'era. La notizia del Nobel per la pace sorprese Xiaobo di nuovo in prigione. Avrebbe voluto che a ritirarlo andasse lei, ma per impedirglielo il regime comunista la mise ai domiciliari. Da quel giorno il sorriso di Xia smarrì la luce, ebbe un attacco di cuore e il marito straziato si ritrovò a lottare con un tumore al fegato. Xiaobo aveva un ultimo desiderio, farsi mandare con la moglie in un ospedale straniero, così alla sua morte lei sarebbe stata libera. Rifiutò di essere intubato, pur di non compromettere le speranze del trasferimento, invece ha chiuso gli occhi, senza poterla rivedere, se non in sogno. Le ha lasciato scritto: «Se fossi ridotto in polvere, userei le mie cenere per abbracciarti. Ci sono amori così potenti che rimangono vivi anche oltre la vita». Questo è Massimo Gramellini in prima del Corriere della Sera. Tante volte parliamo di cose molto vicine a noi, concrete. Questa ci può apparire molto lontana, da un mondo lontano, anche se tutti lo conosciamo, ma è una notizia davvero che troverete sulle prime pagine dei giornali. Come quella, purtroppo, della fotografia scattata dall'Istat, impietosa. E io quando sento la politica rissosa, chiassosa, quel rumore di sottofondo che ogni giorno trova la polemica per farsi delle dichiarazioni, quasi un gioco a rimpiattino, siete stati voi, no? Siete stati voi. E poi uno legge, cioè quell'inutile chiacchiericcio volgare tante volte, e poi legge i dati dell'Istat, no? È solo che questi non fanno rumore, nessuno ne parla. Ma sono sotto gli occhi di tutti i dati dell'Istat: 4,7 milioni di italiani in povertà assoluta, cresciuti di 144.000 rispetto al 2015. I poveri sono soprattutto quelli che hanno tre figli, i poveri sono soprattutto gli operai, i poveri sono soprattutto i giovani, i poveri sono soprattutto i bambini. Ecco, questa è la fotografia molto sintetica di un rapporto ben più complicato. La povertà quota 4,7 milioni, soprattutto famiglie minori. Il titolo di Avvenire a pagina 7. Poveri aumentati del 50% tra le famiglie giovani con figli. Il titolo della Stampa a pagina 6. Poveri triplicati in 11 anni tra giovani e minori. Il titolo del Corriere della Sera a pagina 18. E capite che no, il distacco tra quello che è e sono le dichiarazioni della politica e queste fotografie. Su Repubblica invece c'è una storia di Maurizio Crosetti che ci riporta indietro di qualche mese, che vi segnalo. Ricorderete certamente Alberto Muraglia, ben più conosciuto come il vigile urbano di Sanremo che timbrò in mutande, ed è stato licenziato per questo. Ora timbravo il cartellino in mutande, ora riparo pentole e motorini. Maurizio Crosetti è andato a scovarlo a Sanremo, a pagina 19 di Repubblica. Ora Alberto ripara cose, ferri da stiro, pentole, motorini, asciugacapelli, forni elettrici, rubinetti. Ripara cose e prova a riparare una persona, lui stesso, Alberto. Ed è un racconto anche del dramma di questo vigile urbano che dice: sono pieno di lavoro e se potessi star sereno, se riuscissi a rimanere 8-10 ore guadagnerei più di prima, visto che un vigile prende 1.250 euro al mese. Ma il cervello va in battaglia. Resistere è una faccenda per cuori forti. Io credo di averlo, nei limiti. Poi dà questo dato che io non conoscevo, insomma, bisogna fidarsi delle sue parole. Ma lo sapete che 8 di noi indagati sui 33 del comune hanno tentato il suicidio? Io sono contento di aver preso l'Exotan non più di 6 o 7 volte. Quelle foto, le foto in mutande, mi ha messo alla berlina, ma non lo merito. 3 mesi ai domiciliari sono da impazzire, infatti impazzivo. Qualcuno dei miei ex colleghi del comune a volte passa di qui, facciamo 4 chiacchiere. Ben pochi sono riusciti a ricominciare a darsi una ragione. C'è chi va a mangiare alla Caritas, perché si fa in fretta a sorridere e giudicare. In Italia siamo garantisti solo a parole, mentre invece siamo quasi tutti forcaioli. E va bene, racconta la sua storia, ma per carità non c'è da giudicare né in positivo né in negativo, però è la storia sua che ognuno può leggere su Repubblica. Come potrete leggere la storia sempre in Liguria, ma questa volta ci spostiamo a Genova, di questo magistrato. Il magistrato Vandalo, così definito sul giornale, racconta Stefano Zurlo, e siamo in ambito articolo che mi fa della giornata, il premio Mani sul volante. Stefano Zurlo racconta il magistrato Vandalo punito con un buffetto. È la storia del sostituto procuratore generale a Genova, Ezio Castaldi, magistrato che aveva riempito, leggo, di colla la serratura di casa del vicino ed è stato sanzionato con una condannina, una macchiolina sul curriculum scintillante, la punizione più lieve del CSM tra le condanne disciplinari, e cioè l'ammonimento. A suo tempo aveva avuto anche un ruolo, sia pur marginale, nel sostenere l'accusa contro i poliziotti del G8, ma questa è tutta una vicenda ben diversa. Cosa ci fosse sotto non è dato a sapere, ma è stato accusato di vandalizzare le serrature di un condominio in un palazzo della Genova Bene. Fatto sta che la vittima, esasperata da questi episodi di vandalismo, aveva tappezzato l'appartamento di telecamere e in pratica aveva predisposto una trappola, aveva piazzato una telecamera ben visibile nel pianerottolo e un'altra mimetizzata nello spioncino della porta d'ingresso, e proprio il secondo occhio elettronico aveva documentato la performance del magistrato. 11 agosto 2011, ore 23:10, Castaldi cerca di oscurare con un sacchetto la prima telecamera, stando ben attento a non farsi notare. L'indomani aveva ricominciato a armeggiare con un bastone, riuscendo infine a coprire la telecamera. A questo punto l'altro apparecchio l'aveva immortalato mentre vuotava il tubetto di colla nella serratura e poi, già che c'era, pure nell'inseritore dell'allarme. Da qui la denuncia. E sul piano penale se l'è cavata senza ammaccature, ha pagato la bellezza di 20.000 euro e l'altro ha ritirato la querela. E ora dal CSM solo un ammonimento per il magistrato Vandalo. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Milan, il cagnastro, randaggio dell'informazione. Allora è tornato il cagnastro randaggio. Allora, sull'immigrazione c'è ancora grande dibattito, si è divisa anche la Chiesa. Questo è il titolo che trovate un po', perché il grande esternatore della Chiesa dei poveri, come è definito da Mario Aiello sul Messaggero, cioè Monsignor Galantino, ha detto aiutiamoli a casa loro, non è un'idea giusta, mentre il segretario di Stato Vaticano Parolin replica io credo invece che sia un discorso valido. Se si mettono a litigare anche la Chiesa su questo tema, aiutarli a casa loro no, il momento, come dire, è serio per trovare un accordo su cosa fare. Però sull'immigrazione vi voglio segnalare due articoli interessanti. Intanto Michele Farina, pagina 6. L'immigrazione è molto legata ovviamente anche alla crescita demografica. E la crescita della popolazione con questo allarme in Africa raddoppierà la popolazione in 30 anni è il tema lanciato a livello internazionale. Saranno 2,5 miliardi. È un problema o una risorsa? Si pensa più la prima delle due possibilità. L'Europa preoccupata. Scrive Farina, sono sul Corriere a pagina 6. Problema o vantaggio la crescita demografica africana? All'ultimo G20... il presidente francese Macron ha detto che l'Africa ha avuto problemi di civilizzazione e che parte della sfida attuale è costituita da quei paesi dove si continuano ad avere 7-8 figli per donna. C'è chi ha bollato queste parole come razziste, riflesso della vecchia mentalità del colonialismo francese, ma anche dalla Danimarca, che non passa per paese colonizzatore, hanno annunciato che accresceranno i fondi per il controllo delle nascite nei paesi in via di sviluppo. La ministra della cooperazione Ulla Tornes ha detto che 225 milioni di donne nei paesi più poveri non hanno accesso a strumenti di family planning e, riferendosi all'Africa, ha parlato delle misure per la riduzione della natalità come di una priorità della politica estera e di sicurezza della Danimarca. Con questo ritmo, altrimenti, dice il ministro danese, la popolazione africana raddoppierà fino a raggiungere i 2,5 miliardi di persone entro il 2050. E sul Foglio Antonio Gurrado fa un articolo partendo proprio da questo tema. Il titolo è anche il commento è molto salace: estinguetevi. Ma dall'Università di Lund due ricercatori hanno argomentato che il miglior modo per combattere il riscaldamento globale sia fare meno figli. Si chiamano Seth Wains e Kimberly Nicholas, che hanno pubblicato su una rivista il saggio in cui si evidenzia che le raccomandazioni dei governi tralasciano le più significative azioni che un individuo può compiere per contrastare il cambiamento climatico. Prima fra tutte, non proliferare. Per ogni persona in meno sulla faccia del pianeta si risparmiano 58 tonnellate di anidride carbonica, 25 volte in più che non andando in automobile, 36 volte in più che non prendendo l'aereo, 72 volte in più che diventando vegetariani, 300 volte in più che stendendo il bucato al sole, 600 volte in più che utilizzando illuminazione ad alto risparmio energetico. Poi qui Gurrado va un po' nel sarcasmo a dire: quando egoisticamente provate quei 2 secondi di piacere fisico, pensate alla prospettiva di qualcuno di baldanzoso che vi stia vicino quando da vecchi non ce la farete più, vergognatevi di fare figli. Basterebbe che ciascuno di noi smettesse di riprodursi per poter garantire per sempre all'umanità un ambiente felice, accogliente, in cui sia bello vivere il futuro. Tuttavia non ci sarà più nessuno. Vabbè, al di là del commento molto ironico, il tema legato non solo ai cambiamenti climatici ma anche all'immigrazione c'è, ed è legato alla demografia. Su questo c'è da dire che c'è anche un caso politico, però, sul tema non immigrazione ma sul tema immigrati in Italia. Il caso politico lo lancia il ministro Enrico Costa, che è pronto a dimettersi se il governo mette la fiducia sullo Ius Soli. Se c'è la fiducia, mi dimetto. Così racconta Goffredo De Marchis su Repubblica, pagina 4, questa è la posizione del ministro degli affari regionali, il centrista Enrico Costa. Si prepara all'addio senza nemmeno caricarlo di troppi significati politici, che pure saranno inevitabili per maggioranza ed esecutivo. Il governo rischia. Questa è l'allarme politico lanciato di Repubblica. Tra l'altro la politica è il giorno in cui ancora si litiga. Pisapia dice: non mi candido. D'Alema sul Fatto Quotidiano fa un'intervista, pagina 2-3, rilascia un'intervista dicendo: Pisapia è il mio leader. Però Pisapia ha appena detto che non si candida, mentre D'Alema dice: io forse mi candido. Questo è il Fatto Quotidiano. Poi D'Alema ovviamente ce l'ha anche con Renzi. Questo è il duello rusticano più appassionante della politica. Alla domanda: lei ha letto il libro di Renzi? L'intervista è di Ettore Boffano e Fabrizio D'Esposito, sono a pagina 2 del Fatto Quotidiano. D'Alema, lei ha letto Avanti, per l'amor del cielo? Concordo con Letta quando parla di disgusto. Ho altro da leggere, ho visto le numerose anticipazioni pubblicate dai quotidiani. Quante sono? 8? Una cosa sconcertante, questa informazione di regime, che però contribuisce a far crescere quel sentimento dilagante contro Renzi. D'Alema che probabilmente dice: mi candido. Vabbè, 2 pagine di intervista, pagina 2 e 3 del Fatto Quotidiano. E invece Pisapia fa una marcia indietro, stupendo un po' tutti, anche MDP, dicendo: non mi candido. Fortunatamente noi abbiamo il candidato ideale, colui che sbancherà alle elezioni. Si chiama Mauro Meazza, che tra poco recupereremo, e che deve fare questo annuncio importante. L'annuncio è proprio di un partito che vuole fondare, è il partito delle scadenze fiscali. Ogni giorno vi chiederà un po' di eurini. Mauro, eccoci qui. Pronto? Non c'è. Pronto? Eccoci. Eccoci. Caro Alessandro, cosa è successo? Non lo so, è caduta la linea. Abbiamo ripreso la linea. Mentre stavi per fondare un partito, subito... Ero distratto perché stavo inviando una comunicazione al fisco. Come hai visto sul Sole 24 Ore di oggi, caro Alessandro, sì, diciamo che c'è una certa, possiamo dire, petulanza. Ti piace petulanza? Mi piace. Petulanza del fisco, perché siamo già attorno alle 130 milioni di comunicazioni inviate solo nel primo semestre. L'anno scorso erano state un po' di più, ma in tutto l'anno, quindi c'è una certa preoccupazione, specialmente dei professionisti, che poi sono quelli più direttamente interessati. Ma trovi tutti i particolari a pagina 2 del Sole 24 Ore, non all'interno di norme e tributi, che tuttavia tu leggerai. Tu leggerai? Compulsivamente. Vabbè. Sì, vabbè, ok. Leggi però religiosamente e attentamente norme e tributi, perché ci sono un paio di cosucce che devi assolutamente sapere. Allora, innanzitutto la Cassazione, che ha precisato come non vanno riviste, insomma, le condanne per omesse ritenute. Lì c'è un aspetto che è difficile spiegare in 30 secondi, ma la sostanza è: la soglia è stata alzata, non c'è più il profilo di reato, e quindi se uno ha subito delle condanne adesso deve rivedere. Spiega tutto Giovanni Negri, meglio di come ho fatto io, ma non era difficile. Poi, gli affitti brevi, ti sei segnato che lunedì c'è da pagare? Sì. Ecco, allora, leggi sempre le norme e tributi, cosa succede per gli affitti brevi. E poi, guarda che intanto che noi, tu sei lì a leggere i giornali, bel bello, invece stanno discutendo alla Camera il decreto vaccini, sì, e stanno anche modificando un po' di cose, tra cui la riduzione delle sanzioni. Poi non mettere lo split del condizionatore, il motore esterno del condizionatore, scusa, in modo ingombrante per gli altri condomini, anche se non è martedì, c'è una notizia importante di condominio. Ma ti vorrei, tra l'altro, anche ricordare che domani c'è Plus, sì, che è, come sai, il settimanale del risparmio, quindi ricordati domani per i tuoi 2 eurini, e che, a proposito di risparmi, caro Alessandro, c'è questo paradosso dei comuni. Comuni in Italia risparmiano troppo. Hanno risparmiato 6 miliardi e 400 milioni, ma invece dovevano spenderli. Perché succede tutto questo? Te lo spiega Gianni Trovati. Io devo dire, è un paradosso tutto particolare, non ti voglio svelare niente. Leggi oggi dal Sole 24 Ore e molte cose ti saranno chiare, caro Alessandro. Buona domenica a te, agli ascoltatori e soprattutto per tutti quanti. Traffico! Alessandro Milan, ma perché la butti sempre a caciara? Ma no, ma qual è caciara? Allora, cari ascoltatori, come avete sentito, il sud soprattutto brucia. Molti di questi incendi sono dolosi. Questo lo conferma anche il capo della Protezione Civile, Curcio, Fabrizio Curcio, che viene intervistato dal Giorno, una pagina intera, pagina 5, intervistata da Veronica Passeri, e dice: piromani, criminali senza scrupoli. Sono incendi dolosi, risponde il capo della Protezione Civile. Non ho elementi tecnici per dirlo, andranno fatti accertamenti, ma la conformazione, la persistenza, la frequenza di questi incendi fanno pensare alla mano dell'uomo. Da una parte si spegne, dall'altra si accende. Per questo mi allineo alla richiesta avanzata da molti di pene più severe. Chi viene preso deve essere punito in modo da essere da monito per chi continua a piccare incendi. Credo che vada dato un segnale forte di prevenzione, ma anche di repressione. E poi Curcio parla della questione dei mezzi. Cioè, lei ha denunciato che 6 regioni, tra cui la Sicilia, sono ancora sprovviste di flotta aerea. Questo è certamente un problema, risponde Curcio, ma quando si tratta di incendi boschivi così numerosi e ambigui dal punto di vista della genesi, siamo davanti a una realtà difficilmente gestibile per chiunque, visto che parliamo di centinaia di incendi. A proposito degli incendi, c'è la cronaca e da qui parte il lungo editoriale di Ernesto Galli della Loggia in prima pagina del Corriere della Sera, che vuole analizzare un po' una situazione italiana che, a partire dagli incendi, è una situazione italiana che per Galli della Loggia è davvero fuori controllo. Scrive Galli della Loggia: l'Italia che scappa di mano, l'Italia è di chi se la vuol prendere. Da noi chiunque può fare quello che vuole e quasi sempre lo fa. Oggi, nei giorni di una torrida estate che sembra conferire ogni cosa i colori e i calori di un non troppo metaforico inferno, questa è l'immagine che il nostro paese dà di sé, quella di un paese in cui il governo e con lui tutti tutti i pubblici poteri appaiono sul punto di perdere il controllo del territorio. Sono parole pesanti, lo so, e non prive di precisi echi ideologici, ma a un certo punto bisogna convincersi che la realtà non è di destra né di sinistra, è realtà e basta. Una brutta realtà, dalla Sicilia alla Calabria, alla Basilicata, a Napoli, decine di incendiari spinti da interessi criminali mettono tranquillamente a fuoco zone della nostra penisola e da giorni centri turistici vengono sgomberati precipitosamente senza che per ora si sappia di un solo di questi delinquenti scoperto, arrestato e incriminato. Nelle periferie delle grandi città, dove i servizi sono per lo più al collasso, può capitare benissimo, come a Roma, che dopo il tramonto sia virtualmente in vigore il coprifuoco, che viaggiare su un autobus la sera rappresenti un pericolo, che il cielo si copra per giorni di fiumi tossici dei materiali più inquinanti, o come capita a Milano, che interi caseggiati, gruppi di palazzi, piazze e vie siano di fatto nelle mani di bande di malavitosi abituati a farla da padroni. Ecco, questa è la realtà raccontata da Galli della Loggia. Dappertutto, continua, nelle periferie dei grandi centri urbani regnano spaccio, la prepotenza, le risse, specialmente fra immigrati. In questa stagione più che mai le classi meno favorite della popolazione sentono la loro esistenza quotidiana abbandonata dai poteri pubblici. La realtà, dicevo, non è di destra né di sinistra, è realtà e basta. E la realtà odierna dell'Italia è questa, una realtà che sta scappando di mano. E da qui le due domande al ministro degli interni. Si chiede Galli della Loggia se si è informato adeguatamente di questa grigia realtà diffusa, se si renda conto che agli occhi di un numero crescente di italiani il loro paese sta diventando un luogo sempre più difficilmente abitabile, da apparire addirittura a volte ostile. E poi i magistrati. Ci si chiede se la magistratura sia stata effettivamente all'altezza del suo compito di tutela giuridica della comunità tutte le volte, ad esempio, che è parsa indulgere a interpretazioni dei delitti e delle pene ottimisticamente irreali. Una magistratura che è prontissima e ferratissima nel criticare l'azione legislativa dell'esecutivo quando si tratta di quella che essa ritiene la propria sfera di interessi e viceversa timidissima quando si tratta di proporre lei leggi o procedure efficaci per difendere gli interessi elementari dei cittadini. Questo è Ernesto Galli della Loggia, la realtà di un'Italia che sta scappando di mano, certo un po' pessimistico, un po' o forse realistico, qualcuno poi la vede come crede. Verrebbe da aggiungere, insomma, buon venerdì comunque. Oh, in tutto questo vi segnalo che c'è un caso di morbillo di bambina di 16 mesi, purtroppo morta per morbillo a Roma, all'ospedale Bambino Gesù. E sul Messaggero, visto che c'è tutta la polemica ai vaccini, vi segnalo l'intervista a Flavia Bustreo, che è vicepresidente dell'OMS e che dice peggio dell'Italia sul tema morbillo, solo la Romania, ora c'è il rischio di contagi in Europa. Ve la segnalo, tanto vedete sempre che sono le solite polemiche, le solite interviste fatte artatamente, eccetera. Va bene, ma rimango proprio sul Messaggero, perché siamo all'articolo più inutile scovato sui giornali. Siamo a pagina 7 e siamo a raccontare in mezza pagina di Melania e Brigitte. Il perfetto tricolore di Brigitte e Melania. Vale a dire, insomma, le due, la première dame e la first lady, che hanno creato un perfetto tricolore coi loro vestiti, tacchi e vestiti di Dior e Vuitton, rossi e blu in onore di Stati Uniti e Francia. Ma chi se ne frega!